Salve, sono Stefania, sono qui in compagnia degli amici di Radio Big World. Oggi è un N puntata, non mi ricordo il numero, e vorrei continuare a parlare con voi, se me lo consentite, sempre del tema educativo. Troppo spesso, soprattutto ultimamente, che ho parecchi contatti con i ragazzi di 17, 16, 18 anni, si sente parlare di lavoro che non c'è. È vero, il lavoro, come lo abbiamo pensato fino ad ora, non c'è più fino ad ora, fino a qualche anno fa, non c'è più. Tutti i diritti che i nostri nonni, forse i nostri padri, parlando della mia età che ho 64 anni, avevano conquistato con tanto sudore, tanta fatica, tante lotte, ecco, quei diritti sono spariti, non esistono più. Il diritto al posto fisso, come lo avevamo pensato, non c'è più. Il diritto allo studio c'è, ma insomma parliamone. Il diritto ad avere una casa, parliamone. La situazione sta cambiando e la società sta cambiando. E noi non siamo educati, non siamo istruiti per accogliere questo cambiamento, non sappiamo, sappiamo da dove veniamo forse, ma non sappiamo dove stiamo andando. È un buio totale, questo soprattutto per quei ragazzi che incontro periodicamente e che purtroppo, ahimè, abbiamo la responsabilità di quello che pensano e di quello che fanno noi adulti tutto addosso. Ecco, me la sento veramente tutta questa responsabilità, perché abbiamo fatto credere ai nostri figli e facciamo credere ai nostri nipoti una società che non esiste più. Dobbiamo smetterla, dobbiamo dire ai nostri ragazzi: studiate, studiate, ma studiate con un sogno nel cassetto, studiate con la passione di studiare. Non studiate per prendere il diploma perché la mamma e il babbo vogliono che il loro figlio sia Pinco Pallino, perché il loro figlio non sarà mai Pinco Pallino se segue le indicazioni del babbo e la mamma e se non ha un sogno nel cassetto da seguire. Questi ragazzi hanno bisogno di sognare e se hanno già tutto, se non fanno in tempo a pensare, a desiderare qualcosa perché già ce l'hanno, questa è una cosa davvero molto preoccupante, perché verranno su dei ragazzi, degli automi, che si confronteranno solo con queste tecnologie, con i loro telefonini, avranno delle relazioni con i coetanei del tutto superficiali e del tutto non vere, virtuali, perché è difficile guardarsi negli occhi e questi ragazzi non sono più abituati a guardarsi negli occhi quando si parla, quando parlano tra di sé. È molto più facile mandare un Twitter, mandare una mail, mandare un SMS, non ci metti la faccia, rimani sempre nell'ombra ed è questo quello che stiamo creando, ragazzi che rimangono nell'ombra e che aspettano che altri gli spianino la strada. Non è più questo il tempo, dobbiamo cercare noi adulti soprattutto di metterci nella condizione di dire la verità a questi ragazzi e soprattutto di dargli gli strumenti affinché, usciti dalla scuola, prima di tutto che facciano la scuola con passione, ripeto, con passione, con interesse, ecco, caliamo un attimino, forse con interesse, e che quando escono dalla scuola siano capaci di essere imprenditori di se stessi. Questo ormai sono già 2-3 generazioni che questo non avviene e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È sempre colpa dello Stato, del governo, è vero, è colpa dello Stato, dei nostri politici che non hanno individuato gli argomenti primari, gli argomenti essenziali per dialogare con il popolo, con la gente. Non si può dare alla gente l'illusione con le televisioni che ogni giorno ci tartassano e ci entrano nella testa. E poi il risultato è sotto gli occhi di tutti, come ripeto. Quindi il lavoro del posto fisso non c'è più e i nostri ragazzi dovrebbero davvero far conto sulle proprie capacità imprenditoriali. Io sono bravo, mi piace fare quello e voglio fare quello. Voglio, perché se uno ha nella testa ben chiaro quello che vuole fare, io sono convinta che alla fine farà quello che vuole fare. Grazie, credo di aver detto praticamente quello che volevo dire, vi ringrazio e alla prossima.